Topic of today's Dhamma talk is wisdom part 2. L'argomento del discorso di questa sera è la saggezza, seconda parte. And so at first we shall look at some general qualities of wisdom, and then we will explore one particular type of wisdom. Allora inizieremo con analizzare alcune particolari qualità della saggezza e poi ci addentreremo ad esplorare un particolare tipo di saggezza. Now, to start with a very short passage from Anguttara Nikaya 4, section 143. The Buddha speaks of four lights. What are those four lights? Allora, cominciamo con un breve brano dall'Anguttara Nikaya, parte 1, versi 143. Allora, il Buddha qui parla di quattro luci. E quali sono queste quattro luci? Very simple. È molto semplice. Four truths. Oh, the four noble truths. This le is one answer. Novità. So the one truth corresponds to one light. Quindi ogni verità corrisponde a una luce. So this is one possibility, and then the four contemplations. Please think even in more simple terms. Pensate in termini più semplici. Oh, the Eightfold Path. Here comes another complicated. Well, to help you with the simplicity, there is the light of the moon. There's the. Per aiutarvi in termini di semplicità, c'è la luce della luna. And then there's the light, of course, of the sun. And then there's the light of the fire. Poi c'è quello del fuoco. And since we're talking about wisdom, there's the light of wisdom. E poi, siccome stiamo parlando della saggezza, c'è la luce della saggezza. So, your Eightfold Noble Path, the Four Noble Truths, and the Four Foundations of Mindfulness, they all fit into this last one. E quindi le quattro nobili verità, l'ottuplice sentiero e i quattro fondamenti della consapevolezza, tutti questi rientrano in questo quarto tipo di luce. Now, to remain simple, the next question is, among the four lights, which one is the most supreme one? Quindi per rimanere nella semplicità, allora, delle quattro luci, qual è quella più suprema? The light of the moon! So, not as simple as that. So, of course, the light of wisdom. Naturalmente la luce della saggezza. Now, the Buddha has, or among all the human beings, the Buddha is most noble. And among all physical and mental phenomena, wisdom is the most noble. Allora, tra tutti gli esseri umani il Buddha era il più nobile e tra tutti i fenomeni fisici e mentali la saggezza è quella più nobile. And the reason for this is when wisdom arises, all of the other wholesome mental states will have been accomplished. E questo perché quando sorge la saggezza, allora tutti gli altri stati mentali positivi, salutari, saranno lì, saranno stati raggiunti. And it is said somewhere in the Jatakas that among all dhammas contributing to Nibbana, the attainment of Nibbana, wisdom is most noble, and the other factors are followers of wisdom. Allora si dice nel Jataka che tra tutti i tra tutti i dhamma che contribuiscono al raggiungimento del Nibbana, quello più importante è sicuramente la saggezza. And so it is also mentioned that a purification of the mind leads to happiness, the development of wisdom leads to a purification of the mind, and this in turn leads to happiness. E quindi la purificazione della mente, lo sviluppo della saggezza porta alla purificazione della mente, e questo conseguentemente porta al last part was at happiness, alla felicità, scusa. Now, the the particular insight or the particular form of wisdom that we're going to discuss today is that the second insight, namely which discerns cause and effect. And this cause and effect or causal causal links very much determine the our very practice of Satipatthana. Allora, il tipo particolare di saggezza che esamineremo è quello che viene con il secondo insight, e cioè quello che permette di capire, di intuire, di comprendere la relazione di causa-effetto. E questa causalità è molto importante perché condiziona tutta la nostra pratica. And so, yesterday it was mentioned that faith together with lending an ear, hearing the Dhamma, and then diligence, and what else, a certain discerning awareness, that these certain factors contribute to the arising of wisdom. Allora, ieri abbiamo detto che la fede o fiducia, l'ascoltare il Dhamma, la diligenza, il desiderio di imparare, poi l'ascoltare il Dhamma, diligence, and the last one is the discerning awareness or the power of reflection. Sì, questa consapevolezza del discernimento o il potere del discernimento, tutto questo contribuisce al all this contributes to The arising of wisdom. Tutto questo contribuisce al sorgere della saggezza. Now, in a similar way, we have another causal connection stated in the Samyutta Nikaya and as given by the Buddha, namely four factors, if present, leading to the arising of the fruit of stream entry. Allora, anche qui abbiamo un altro gruppo di quattro fattori che quando sorgono portano alla fruizione dell'entrata nella corrente, or così come è indicato nel Samyutta Nikaya. Sì. And so, or in a more general way, four factors leading to the arising of wisdom. O in un senso più generale sono quattro fattori che portano al sorgere della saggezza. Now, the first one is association with superior persons, or let's say wise persons. La prima è l'associarsi o essere in contatto con persone superiori o persone sagge. But just looking at them will not be enough. One needs to hear the true Dhamma. Ma solo guardarle non sarà sufficiente, uno deve ascoltare il vero Dhamma. So hearing the true Dhamma is the second factor. E qui, quindi, questo ascoltare il vero Dhamma, questo è il secondo fattore. But even though the Dhamma may be presented in the course of a Dhamma talk or whatever, yet one can benefit from it only if there's careful attention. Ma anche se il Dhamma viene ascoltato, come per esempio in un discorso di Dhamma, però uno può trarne dei benefici solo se c'è l'attenzione. So this then covers three factors, and one factor remains. Now there are a number of people who love to approach some wise person. They love to hear the Dhamma. They do pay attention, yet they don't practice. Quindi manca ancora un ultimo fattore. Ci sono delle persone che cercano una persona saggia, la compagnia di una persona saggia, amano ascoltare il Dhamma, lo ascoltano anche con molta attenzione, tuttavia non praticano. And thus the fourth factor given by the Buddha is putting what one has heard into or practicing in accordance to the Dhamma. E quindi il quarto fattore indicato dal Buddha è il mettere in pratica ciò che si è appreso relativamente al Dhamma, cioè in conformità con il Dhamma, conformemente al Dhamma. And so, when these four factors are present, then they lead, when they're present, when developed and cultivated, they lead to greatness of wisdom. Quindi quando questi quattro fattori sono presenti, sono coltivati, sviluppati, portano a questa saggezza superiore, più grande. So, when certain factors are given, then a certain result, corresponding result, is to be expected. Quindi dati determinati fattori, un determinato risultato è c'è da aspettarsi un determinato risultato, è prevedibile. Now, of course, a number of other factors need to be included, need also to be present, such as the training in virtue, and then restraining one's senses, and then maintaining or being moderate in eating, being devoted to wakefulness, etc. Sono altri fattori che vanno sviluppati, per esempio lo sviluppo della virtù, il controllare i sensi, l'essere moderato nel mangiare, and devoted to wakefulness. Ed essere in qualche modo attenti o devoti, diciamo, attenti, diciamo, rispetto all'essere svegli. Impegnarsi a essere svegli. And this naturally has to be complemented by the development of concentration and wisdom. E questo va integrato con lo sviluppo della concentrazione e della saggezza. And eventually it will lead to liberation. E questo prima o poi porterà alla liberazione. Now, in a similar way, again we have a causal connection that describes, or a causal connection for the unfolding of the meditation practice. And it starts with faith, and then it's followed by a desire to practice. Once this desire to practice is there, one will exert a certain amount of effort. E di nuovo c'è un rapporto causale che porta allo sviluppo della pratica meditativa, e si comincia con la fiducia, questo porterà a un desiderio di praticare, questo desiderio di praticare porterà a uno sforzo. Then exerting effort, and on top of this aiming properly, rubbing the object, then naturally mindfulness will arise, it becomes sustained. Based on this mindfulness, concentration will be there, so the mind will be collected and fixed to the object, and based on this wisdom will unfold. Allora, una volta che c'è questa sforzo, c'è poi il mirare verso l'oggetto, sfregare l'oggetto, e in conseguenza di ciò ci sarà lo sviluppo della consapevolezza. Con lo sviluppo della consapevolezza ci sarà la concentrazione, con lo sviluppo della concentrazione ci sarà la saggezza. And so the causal chain goes even a step further, namely, once wisdom has arisen in the form of an insight knowledge, then this will lead to what? Allora, si può andare ancora avanti con questa catena causale. Una volta che è sorta la saggezza, allora questo porterà ad una conoscenza dell'insight. E questo porterà poi a che cosa? Nibbana. To Nibbana, eventually, yes, but before we get to there. Prima di arrivare a Nibbana. More insight. Ulteriori insight. Eventually, yes. But before this. Ma prima ancora. What's that? First path. Yes. Il primo. Still, more simple than this. È più semplice di questo. La giusta comprensione. Una giusta comprensione. A right understanding. Right understanding. Well, happiness. Happiness. yes, we mentioned this. the point here is that the arising of an insight knowledge usually then leads to the arising of more faith. So one starts out with a little bit of faith. Oftentimes one's initial faith is somewhat shaky and not that strong yet. And as one then gains one insight knowledge, one realizes how this is really in accordance with the Buddha's teachings. I seem to be on the right track. And thus more faith is there, and out of more faith grows again a stronger desire to practice, one exerts more effort, and so on and so forth. Allora, ciò che accade dopo che si ha un'esperienza di insight è che cresce la fede, perché inizialmente si può avere la fede, però è un po' traballante. Invece quando si ha un insight viene rafforzata, perché uno dice sì, effettivamente io sto praticando in accordo con gli insegnamenti del Buddha, sono sulla via giusta, e quindi questa fede a sua volta fa nascere un ulteriore desiderio di praticare. Questo desiderio di praticare porta a un maggiore sforzo, che porta poi a maggiore consapevolezza, concentrazione, and then to even more wisdom, and so, and eventually will reach the first path. E andando avanti così si raggiungerà il primo sentiero. And with that, then, no one's faith becomes unshakable faith. E a quel punto la fede diventa una fede incrollabile. So what we have is a very clear causal connection between the arising of wisdom and faith. Quindi abbiamo un rapporto causale molto chiaro tra la saggezza e la fede. The more wisdom arises, the stronger our faith gets. Più sorge la saggezza, più diventa forte la nostra fede. Now, those forms of wisdom that are known as insight knowledges, as vipassana jnanas, arise not in a haphazard manner, but rather in a rather systematic manner. Quindi queste forme della saggezza, che si chiamano conoscenze dell'insight o jnana di vipassana, non capitano in una maniera così casuale, ma piuttosto in una maniera più sistematica. And certainly we can say that the process of the arising of the insight knowledges is again a causal process. E possiamo dire che il processo che regola questo sorgere degli insights è anche questo un processo causale. And one insight depends on the preceding, if not the preceding insight, if not the preceding two or three insights. Quindi il sorgere di un insight dipende da quello precedente, se non addirittura da quelli ancora prima, insomma dai due o tre ancora prima. And so the meditation practice can be seen as the graduated path of lessons to be insight lessons to be learned. Quindi il progresso della meditazione, il processo della pratica può essere visto come una serie di lezioni progressive negli insights da essere raggiunti, che vanno raggiunti. And if one lesson has not been learned properly yet, if certain of things remain undigested, then the practice will not move on. Quindi se una lezione non viene ben compresa, se rimangono ancora delle cose non completamente digerite, allora non si potrà procedere nella propria pratica. And then one might go into kind of a repetitive lap, until finally one gets the point, until one has digested what needs to be digested, and then the practice will move on. Allora può succedere che uno vada un pochino in un circolo ripetitivo finché uno finalmente non capisce pienamente qual era il punto, insomma, allora a quel punto può procedere e andare avanti. And so each of these insight knowledges, each of the contemplations fulfills a certain function. And so, so in the case of, let's say, the third is the insight knowledge, the function is to replace the wrongful perception of formations as permanent, as satisfactory, conducive to happiness and possessing itself. These get replaced by a correct perception of formations as impermanent, unsatisfactory and lacking a self. Allora, ognuna di queste contemplazioni, di questi insights, soddisfa una determinata funzione. Per esempio, nel terzo insight, la funzione è quella di superare una percezione errata, cioè si va dal percepire i fenomeni come permanenti, come fenomeni che possono portare alla felicità o fenomeni che hanno un sé solido. Allora si passa alla percezione invece corretta, che i fenomeni sono impermanenti, sono insoddisfacenti e sono privi di un sé. And so, for instance, in the first insight knowledge, well, the function is to understand to think clearly that there is no being per se, and all there is are just physical and mental formations. La funzione del primo insight è questa chiara comprensione del fatto che non esiste una persona di per sé, ma ciò che esiste sono semplicemente dei fenomeni mentali e fisici. Yeah. When you are in, when you're experiencing a particular insight knowledge, then this insight knowledge will go along with certain physical as well as mental symptoms. Allora, quando uno fa un'esperienza di insight, allora questa esperienza è accompagnata da determinati sintomi, diciamo, fisici e mentali. When your practice moves ahead into the next insight knowledge, then you'll get a different set of very specific physical as well as mental symptoms. Quindi quando la vostra pratica procede e va all'insight successivo, allora ci saranno degli specifici sintomi fisici o un'intera serie di sintomi fisici e mentali diversi da quello precedente. No. Towards the end of the meditation retreat conducted by the Venerable Sadhu Pandita at the Forest Refuge in Barre, Massachusetts, Kate Wheeler, the editor of the book In This Very Life, spoke on behalf of the yogis. Allora, alla fine di un ritiro che ha fatto il Venerabile Sadhu Pandita nel Forest Refuge di Barre, Massachusetts, una meditante, Kate Wheeler, che è quella che poi è stata l'editrice del libro proprio in questa vita di Sadhu Pandita, allora a nome di tutti i meditanti del gruppo ha posto una domanda. So, she's just made a statement. Ha fatto un'affermazione. Yeah. And so, well, what she said was something like this. In the course of the 1 month retreat, the venerable put the meditators through a certain program, and this program was somewhat similar to being put into a laundry machine. Adesso, venerabile, durante questo mese di ritiro ha messo tutti noi meditanti in un programma. Questo programma era molto simile a quello di una asciugatrice. So you consider yourself inside a laundry machine, and then all of a sudden cold water being added. Did you say washing machine? Or laundry machine. non e comunque una lavatrice, perché negli Stati Uniti ci sono anche le lavatrici. Quindi, sorry, this last part was imagine yourself. Imagine yourself inside that laundry machine, and all of a sudden cold water is being added. Allora, immaginatevi dentro questa lavatrice, allora sì, e improvvisamente viene messa dentro l'acqua fredda. And then shortly after that, some detergent is being added. Dopo un po' vi arriva addosso il detersivo. And so this is still not enough. Then the machine gets switched on, and so the actual laundry program starts, and so you get tossed all over the place. Questo però non è sufficiente. A un certo punto la macchina viene messa in moto, la lavatrice, e cominciate a essere sbattuti di qua e di là. And then then all the water gets drained, and then maybe some hot water gets added. A un certo punto c'è lo scarico dell'acqua e viene aggiunta magari dell'acqua calda. And you barely survive the heat of the water. Non riuscite quasi a sopportare, a sopravvivere a questo calore dell'acqua. Now finally, and then there might be another, program where the machine is working, and so you get sort of thrown all over the place. And then eventually, comes once the water has been drained, eventually comes the spinning program. Sono ancora un po' di vicissitudine fino ad arrivare poi al alla centrifuga. And so once you've survived this, then you come out pretty pure. Se sopravvissuti attraverso tutto questo processo, uno poi esce fuori abbastanza puro. And so meditation is something like this. Quindi la meditazione è una cosa di questo genere. So now, when an insight knowledge arises, then there will be certain certain stages within itself, or certain phases might be a better way of putting it, within one insight knowledge. Quindi quando sorge una conoscenza dell'insight, all'interno di questo insight ci sono varie fasi. And you might notice that usually at the beginning of a new insight knowledge is marked by experiencing predominantly physical formations. Allora, vi potrete accorgere che l'inizio di un particolare insight di solito è accompagnato da formazioni fisiche. And then after a while you might notice that the feelings come into the foreground for a while. Poi vi accorgerete che le sensazioni vengono poi in primo piano per un po' di tempo. And then after a while the perceptions might come into the foreground. E poi potrebbero venire in primo piano le percezioni. And it doesn't mean that the others fall away, they're still there, they're somewhat in the background. Non vuol dire che gli altri non ci siano, ci sono sempre, però sono un po' sullo sfondo. Okay. And then the mental formations might come into the foreground as the practice is getting more refined. E man mano che si raffina la pratica, vengono poi in primo piano le formazioni mentali. And so eventually consciousness itself might show just briefly. E potrebbe poi apparire brevemente la coscienza. And usually at that point, the actual insight, intuitive insight takes place. A quel punto avviene proprio l'effettivo insight intuitivo. Now, maybe this much for some general notes on wisdom. Now let's go into the details of the second insight knowledge. Bene, allora ci fermiamo qui per quanto riguarda alcune indicazioni generali sulla saggezza. Adesso entriamo a parlare in dettaglio del secondo insight. So, a practical example of seeing a causal link might be or has been expressed by one of the meditators here as follows. Mm-hmm. Okay. The other day there was this spinach tart for lunch. Seeing it, tasting it, liking arose. Allora, per spiegare in maniera pratica questo collegamento causale che viene compreso nel secondo insight, allora una cosa che ha detto un meditante durante i colloqui è precisamente quel giorno in cui c'è stato la torta salata di spinaci. Allora ha detto vedere gli spinaci, assaggiare la torta di spinaci e led to a liking. Questo ha portato ad un provare piacere per questo oggetto. Yeah. So what we have here is a causal chain. Quindi una catena causale, abbiamo. Seeing the spinach tart, even tasting it, and then liking arises. Quindi vedere questo tortino di spinaci, assaggiarlo e poi il piacere di mangiare. Now, if in the same process mindfulness would have been present, then there would have been the seeing of the spinach tart and just the seeing and no liking, and tasting it or eating it and just the tasting of it without the liking. Se fosse stato presente in questo processo la consapevolezza, ci sarebbe stato il vedere il tortino di spinaci e solamente il vedere, senza il provare gusto, diciamo il piacere. Poi il mangiare il tortino di spinaci e solo il mangiare il tortino, anche qui senza questo aspetto del piacere. Or another meditator reported just recently, when carefully observing the mind, that she noticed a mental intention or a mental impulse to quarrel, but being mindful of it, of course, changed everything, and so no quarreling ensued. Un altro esempio di una meditante che ha riferito di aver osservato la sua mente e aver visto l'intenzione o la tendenza al litigio, però essendo consapevole, avendo visto questa tendenza, poi non l'ha messa in atto. And so, a non-meditator, a bit, an unexperienced meditator will might have a similar experience, but owing to a dullness of the mindfulness or an absence of mindfulness, well, the impulse to quarrel arises and it goes unnoticed and the quarreling follows. Un meditante non esperto, con una consapevolezza debole o assente, si sarebbe comportato allo stesso modo, quindi ci sarebbe stato il sorgere di questo impulso al litigio e molto probabilmente a questo sarebbe seguito poi il litigio vero e proprio. Then, a different case. A meditator in Lumbini once remarked, usually seeing a pair of shoes right in the middle of the entrance to the meditation hall would create aversion in her mind. Un'altra meditante a Lumbini ha riferito che di solito il vedere un paio di scarpe proprio nel bel mezzo dell'entrata alla sala di meditazione, questa vista avrebbe creato dell'avversione. But on one occasion, when mindfulness was present, at the moment of seeing a pair of shoes placed right in front of the entrance to the meditation hall, well, it did not lead to the arising of aversion. Ma quando la sua consapevolezza è diventata forte, allora l'aver visto questo paio di scarpe proprio davanti all'entrata della sala di meditazione non aveva provocato questa avversione. Or a different situation, namely, during the transition from the fourth to the fifth insight knowledge, objects in general become somewhat unclear. Un altro esempio: nel passaggio tra il quarto e il quinto insight, gli oggetti di solito diventano poco chiari. And this happens across the board. Meaning for everyone. For everyone. Yeah. E questo capita a tutti. Those who get that far. A tutti quelli che arrivano a questo punto. Yeah. And there's, there are two very strong causal links. The fact that objects are no longer clear, when previously they were crystal clear, leads to the arising of an increased wandering mind. This is one connection, and the other causal link is that it leads to for most people to the arising of despair or frustration with what's happening in the practice. So this comes with not seeing the objects clearly. Yes. Allora, un'altra appunto rapporto causale è che quando si perde questa chiarezza dell'oggetto, allora di conseguenza sorge una mente che divaga, e un altro sintomo, diciamo così, può essere una forma di disperazione. Now, another case involves restlessness, and we discuss restlessness as one of the hindrances. Un altro caso riguarda l'irrequietezza. Noi abbiamo già parlato dell'irrequietezza in relazione ai cinque ostacoli. Now, a common sequence is the following. A pain arises somewhere in the body, the pain gets stronger and stronger. This leads to the arising of aversion in the absence of mindfulness, and in most cases the aversion in turn leads to the arising of restlessness. Allora, un caso che capita abbastanza di frequente, sorge un dolore. In mancanza di consapevolezza, questo dolore porta all'avversione, e l'avversione a sua volta porta all'irrequietezza. So, when something like this happens in one's own practice, then one should try to see this causal connection as clearly as possible, and then start to be mindful of it. Quando questo capita nella propria pratica, uno dovrebbe guardare questo rapporto causale molto chiaramente e see it very clearly, and then to be mindful of it. E esserne consapevoli. Yeah. And so, and then remember that the proximate cause for the arising of restlessness is something given. Or was given as unwise attention to disquietude. So when the mind is somewhat unsettled, disquiet, then, and we're not mindful of this, then restlessness is bound to arise. Allora, la causa prossima del sorgere dell'irrequietezza è una mente non quieta. E quindi, se noi siamo consapevoli di questa mente non quieta, possiamo evitare il sorgere dell'irrequietezza. And so when this unsettledness of the mind, the disquietude of the mind is present, and we think, oh well, never mind, that's all right, that's my normal state of mental state of being, then obviously it will lead to much restlessness. Quindi quando sottovalutiamo questo stato di non quiete della mente, dicendo ma sì, non importa, è il mio stato normale della mente, allora questa non consapevolezza, diciamo, può portare all'irrequietezza. And in the presence of restlessness, then it will be very difficult to observe the predominant objects. E quando c'è l'irrequietezza sarà molto difficile osservare gli oggetti predominanti. Now, another a case for the arising of or a causal connection with regards or that involves restlessness is the following. Allora, c'è un altro caso sempre riguardante l'irrequietezza in cui si vede bene questo rapporto causale. And so many of you will be very well familiar with this. E sarà molto familiare a molti di voi. So, let's say you're trying really hard in your meditation practice, and actually you end up applying excessive effort. Allora, voi state, ce la state mettendo tutta nella vostra pratica meditativa e state mettendo uno sforzo eccessivo. This might for a short while be leading to good results, but in the long run restlessness is bound to follow. Questo potrebbe nei tempi brevi portare dei buoni risultati, ma nei tempi lunghi potrebbe invece risultare in una irrequietezza. And the Buddha has expressed, he's experienced the same thing, and described it in a paragraph from the Anguttara Nikaya that relates his experiences before gaining enlightenment. Il Buddha nell'Anguttara Nikaya spiega una sua personale esperienza di questo tipo che ha avuto prima di raggiungere l'illuminazione. And to quote, should one give exclusive attention to the characteristic of energetic application? Quindi dovesse una persona mettere la sua attenzione esclusiva alla applicazione energica? It is probable that one's mind will be liable to distraction. Allora, è probabile che la propria mente sia predisposta alla distrazione. Yes, and the reference is to Anguttara Nikaya volume 1, section 256. Quindi l'Anguttara Nikaya volume 256. Numero 256. And well, what do you think? Are these all cases relating to restlessness? Allora, questi sono tutti casi relativi che si riferiscono all'irrequietezza. What do you think? Yes. Yeah. Nope. No. There's still some more. Quindi non sono tutti qua, ce ne sono ancora. So, basically we can say that all of the hindrances, the remaining hindrances contribute to restlessness itself. Quindi possiamo dire che anche tutti gli altri ostacoli portano alla irrequietezza. So, let's say you're sitting in meditation and all of a sudden you remember your girlfriend or boyfriend. Immaginate che state seduti in meditazione e all'improvviso vi ricordate la vostra fidanzata o il vostro fidanzato. And then strong sense desire arises, and so if previously your practice was quite calm, now it is not anymore. Allora sorge un desiderio dei sensi, e se prima la vostra mente, la vostra pratica era tranquilla e calma, adesso non lo è più. So sense desire leading to restlessness. Quindi desiderio dei sensi che porta all'irrequietezza. In the absence of mindfulness. Ovviamente quando manca la consapevolezza. And so, another case would be if one experiences sloth and torpor over and over again, sitting after sitting, and then sooner or later this will also lead to the arising of restlessness. Un altro caso è quando uno ripetutamente ha esperienze di pigrizia e torpore, questo prima o poi può portare a uno stato di irrequietezza. And, so, and then in the case of skeptical doubt, if all of a sudden one's mind gets overwhelmed by strong and fundamental doubts, then this too might lead to the arising of restlessness. Per quanto riguarda il dubbio scettico, se la mente viene pervasa da questi dubbi fondamentali e molto forti, allora anche qui uno potrebbe, cioè questo potrebbe far sorgere l'irrequietezza. Now, in the context of the first and second and insight knowledge, it's Venerable Jnanatiloka is pointing out something really interesting, namely that the first certain insight knowledge is an analytical approach into or an analytical observation of the predominant phenomena. Allora, venerabile Jnana Tiloka fa un'osservazione interessante rispetto al primo e al secondo insight, e dice che il primo insight è un'osservazione rispetto al primo insight, questo è una osservazione analitica dell'oggetto predominante. Yes. And analytical approach in the sense that all the material, physical and mental material, that arises, gets then analyzed very carefully. Okay, what is this? What is that? What is that? What is that? So we have hardness there, softness there, some tension there, some mental states there, and so on and so forth. Ed è un approccio analitico nel senso che tutto il materiale che si ha a disposizione, che sia fisico o mentale, viene in qualche modo preso in analisi, e uno si chiede, allora che cosa c'è? C'è la durezza, c'è la morbidezza, c'è questo, c'è quest'altro, c'è uno stato mentale, e via di seguito. So this is kind of like your surgeon who dissects a body and sees what is there. È come un chirurgo che come si dice? Fa pezzi, seziona un corpo e vede quello che c'è. No, in the case of the second insight knowledge, the mind is taking a different approach, and this happens quite naturally. There's nothing that one needs to force there. And so in the second insight knowledge, the approach is more in a synthetical manner, and a meditator will see the connection between objects. Nel secondo insight, in maniera assolutamente naturale, senza forzare, l'approccio cambia, diventa più un approccio sintetico, e il meditante vede i collegamenti tra i fenomeni, tra gli oggetti. So a meditator might realize while observing a pain, and this pain is getting stronger and stronger and stronger, that this seems to be having an impact on the rising and falling, which then becomes somewhat forceful. Per esempio, un meditante può accorgersi che man mano che il dolore cresce di intensità, questo ha un effetto sull'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, che diventa un pochino più forzato. So the mind is at this point looking not at one object alone, but the scope of one's observation becomes somewhat larger, and one then sees an impact on some other object. Quindi l'osservazione non è limitata a un oggetto, ma l'ambito diventa un po' più grande, più ampio, e si comincia a vedere l'impatto che ha un oggetto su un altro oggetto. Or a meditator might realize that when some negative thoughts, some hateful thoughts are crossing his mind over and over and over again, that this is not going by, or is that this is having a certain impact on the body. Oppure uno può accorgersi che alcuni pensieri negativi, per esempio dei pensieri carichi di odio, questi possono avere un effetto sul corpo. And so the effect could be in the form that one's heart starts pounding, and then the face may turn red, one may start sweating, the body or the muscles might start tensing up, and so on and so forth. E questo può essere, per esempio, un'accelerazione del battito cardiaco, oppure uno diventa tutto rosso, oppure può cominciare una sudorazione, o il corpo diventa teso, e così via. Eccetera. So these are all practical examples of how one can experience this insight knowledge of cause and effect. Questi sono tutti esempi pratici di come uno può avere esperienza di questo rapporto di causa-effetto. And cause and effect can be seen not only during an intensive retreat, but also outside of a retreat. E questi rapporti di causa-effetto possono essere visti non solo all'interno di un ritiro di meditazione, ma anche fuori. Now, when we interact with others, the way we talk, what we say, how we say things will have a certain impact on others. Allora, nel relazionarci a un'altra persona, come diciamo le cose, quello che diciamo, l'atteggiamento che abbiamo, questo può avere un determinato impatto sugli altri. So if we're not mindful, we won't see the causal link. Se non siamo consapevoli, noi non vedremo questo collegamento causale. However, if we start to be mindful of these things, then we might notice that our own way of speaking is full of threats and full of accusations and wrongful judgments and so on and so forth. And then we might also find that when we talk in this way, that we're getting mostly negative reactions. Se invece ne siamo consapevoli, allora vedremo per esempio che il nostro parlare è pieno di accuse, pieno di giudizi negativi, e che questo provoca negli altri un determinato tipo di reazione. So, and then, if we're mindful of the whole process, we might realize what is going on, and then make the necessary changes, and maybe drop these accusations, drop the threats, and drop the wrongful judgments. E se invece ci rendiamo conto di questo processo, allora possiamo modificare il nostro atteggiamento e far cadere queste minacce, queste accuse o questi giudizi errati. And then we might find that we get much more wholesome reactions from the others. E potremmo accorgerci che riceviamo delle reazioni molto più salutari da parte degli altri. And so this is actually a contribution to peace. E questo è un contributo verso nella direzione della pace. So when it comes to conflict resolution, seeing cause and effect is really important. Quindi quando si tratta della risoluzione dei conflitti, il vedere questo rapporto di causa e effetto è davvero importante. And in particular to see one's own contribution to a conflict, not just always the contribution of others. E soprattutto vedere il proprio contributo verso un conflitto, non semplicemente quello di qualcun altro. Okay. No. When it comes to the second, the insight knowledge, when a meditator sees causal links, and then these certain causal links can occur in many different forms, and they can be grouped into four basic categories. Allora, per tornare al secondo insight, allora un meditante comincia a vedere questi rapporti causali e questi possono rientrare in quattro categorie. Li vede in varie forme, diciamo, rientrano in quattro categorie. So, a physical phenomenon may lead to the arising of another, a different physical phenomenon. Quindi un fenomeno fisico può condurre, può portare a un altro fenomeno fisico. So, let's say, we're doing our walking meditation and outside, and then it, all of a sudden there's a heavy rain, we get wet, and maybe a few hours later we might end up with a running nose. Allora, facciamo l'esempio che siamo fuori, stiamo facendo una camminata, improvvisamente si mette a piovere, noi ci bagniamo e di lì a poco ci viene un raffreddore, abbiamo un naso che gocciola. Then the second fundamental category is one mental phenomenon is the cause and it leads to an effect which is a different mental phenomenon. Allora, la seconda categoria è un fenomeno mentale che è la causa di un altro, del verificarsi di un altro fenomeno mentale. Okay. So the example that the Venerable Sarupandita likes to give in this connection is that of advertence. So advertence, I'll explain. Un esempio che fa Sarupandita riguardo a questo è l'esempio dei advertising, turning to. Ah, quindi il volgere verso qualcosa. So, let's say you're sitting in at home in your in a dining room, and then the TV is switched on, and the meal is placed right in front of you on the table, and then maybe you're sitting on a very comfortable chair. So then at that point, different sense impressions will be competing for attention, for your or the mind's attention. Allora, immaginate questa situazione, siete seduti in una poltrona comoda con davanti a voi la televisione e il piatto pronto con il cibo che va a mangiare, con la cena pronta sul piatto. Yes, right. Allora la mente a quel punto ha diversi oggetti che stanno sono in competizione tra loro per avere la vostra attenzione. Yes. Sono c'è una concorrenza, diciamo. Yes, right. And it is this mental factor of advertence turning to that's then decides which object is being given full attention. So allora, is it going to be this, the visible object, so the images on the TV, or is it going to be the smell of the wonderful food on the table, or is it the soft tactile impression caused by sitting on a soft chair? Allora sarà questa funzione mentale, questo fattore mentale del volgere la mente in una direzione piuttosto che l'altra, sarà questo fattore che determinerà se l'attenzione sarà posta, sarà direzionata verso l'oggetto visivo, la televisione in questo caso, oppure l'oggetto gustativo, cioè o olfattivo del cibo che è nel piatto, o l'oggetto tattile che è la morbidezza, per esempio, del cuscino. Sì. So, depending on which object the advertence is turning to, depending on that will the sense or the corresponding consciousness arise. Quindi in base a questo fattore, cioè in base a quale direzione prenderà la mente, si aprirà una porta dei sensi piuttosto che un'altra e la relativa coscienza. Now, the third basic category of causal links covers all those experiences where a physical object is the cause and leading to a mental object as certainly being the result. Allora, la terza categoria riguarda quegli oggetti fisici che portano a sorgere o avere come risultato un fenomeno mentale. So, as an example, as given earlier on, a strong pain is there, and this leads to the arising of aversion. Allora, l'esempio è stato dato prima, sorge un dolore fisico e questo porta a sorgere dell'avversione. And then, as the fourth basic category, we have a mental object being the cause, and the effect is some physical object. La quarta categoria è l'oggetto mentale che provoca il sorgere di un oggetto fisico. And so we've given already an example for this. Aversion is there in the mind, and suddenly it leads to all sorts of reactions in the body. Anche questo l'abbiamo già dato come esempio, sorge l'avversione e questo porta tutta una serie di fenomeni fisici nel corpo. Now, when a meditator in the course of intensive practice sees a number of these causal connections or causal links, then sooner or later the person might get the point that things are not arising without a cause. They're not arising in a haphazard manner. Allora, quando uno meditante vede con la pratica intensiva vede ripetutamente questo rapporto di causa-effetto, allora capirà che il sorgere di un oggetto non capita in maniera così casuale e che è sempre determinato da una causa. And again, when seeing when seeing several causal links, clear cut links, then a meditator might then realize that no supreme being is in control. Allora, quando si vedono ripetutamente questi questi collegamenti di causa-effetto, allora uno può rendersi conto che non c'è un essere supremo che è in controllo di questo processo, che ha il controllo su questo processo. And so, this understanding, then, this intuitive understanding or wisdom, then takes the place of believing wrongly that things are happening in a haphazard manner, or thinking that some supreme being is in control. Quindi questa conoscenza profonda e intuitiva fa sì che uno questa conoscenza sostituisce invece l'opinione errata che le cose succedono in maniera del tutto casuale, o che ci sia un essere supremo che ha il controllo delle cose, dei processi. And thus, once again, this then is part of a general process of purification of the mind. E questo fa parte di un processo più generale di purificazione della mente. And in this case, purification by overcoming doubt. E in questo caso si tratta della purificazione attraverso il superamento del dubbio. Now, this much for our talk on wisdom and the second insight knowledge. Allora, finiamo qui per quanto riguarda la saggezza e la seconda conoscenza dell'insight. And so let me conclude by wishing that may all of you gain this understanding of cause and effect in a clear-cut manner over and over and over again, and so it can be experienced on many different levels, and thus may it help you to by applying mindfulness cut through unwholesome connections, and thus may liberation take place. Allora, che voi possiate vedere ripetutamente questo rapporto di causa-effetto ed avere una profonda comprensione di questo insight, e che attraverso questa comprensione voi possiate tagliare, recidere le visioni errate, e attraverso questo, con la vostra pratica e con la consapevolezza, possiate giungere alla liberazione. So this is part one, and then part two is for the answer for Massimo. Ah, ok. Allora, questa era la prima parte del discorso, la seconda parte invece è la risposta alla domanda di ieri sera di Massimo. So, Massimo, what exactly do you want to know? Cos'è esattamente che vuoi sapere? What's the relation between wisdom and serenity? Oh, serenity, the relation. Massimo chiede qual è esattamente la relazione tra la saggezza e la serenità. O meglio, le due pratiche, no? Il Vipassana e Samatha. So, to briefly answer your question. The practice of serenity supports the practice of insight, and the practice of insight supports the practice of serenity. Allora, they complement each other. Per dare una risposta breve alla tua domanda, la pratica della serenità o della tranquillità sostiene la pratica dell'insight, e viceversa, la pratica dell'insight sostiene la pratica della serenità. Si complementano a vicenda, si integrano a vicenda. And at a certain point, these two can be even coupled. E a un certo punto queste due possono anche essere accoppiate. But this takes some experience. Ma questo richiede una certa esperienza. No. In detail, the main benefit of serenity practice is the arising of various levels of various absorptions. Allora, il beneficio principale della meditazione sulla serenità è il raggiungimento di diversi livelli di assorbimento. And when we say absorption, then we mean level of concentration. E quando parliamo di assorbimenti, parliamo di livelli di concentrazione. However, in this, there is not much intuitive insight. Ciononostante, in questo non c'è molti insight intuitivi, non ci sono molte conoscenze intuitive. For instance, as the Venerable Sarvapandita points out, gaining of the four jhanas does not bring about the arising of the first, second, third insight, and so on. Come dice il Venerabile Upandita, il raggiungimento dei primi quattro jhana non è sufficiente per far sorgere nel primo, nel secondo, nel terzo insight, ovviamente neanche gli altri. Now, in the case of the Vipassana practice, the main benefit comes in the form of wisdom, intuitive wisdom. Invece, per quanto riguarda la pratica della Vipassana, dell'insight, il beneficio principale è il sorgere della saggezza intuitiva. Now, as we've seen already, this wisdom does not arise all by itself. It arises, or it is based on the presence of concentration, and it also requires the presence of mindfulness, effort, and so on. Come abbiamo visto, questa consapevolezza non nasce, questa saggezza non nasce da sola, ma è necessario l'addestramento nella concentrazione, nella consapevolezza, nello sforzo, and so on, e così via. Effort. And so now, with the practice of the Vipassana Bhavana, mental development through insight, we can temporarily and later on a permanent basis eradicate or abandon, if not eradicate, certain unwholesome mental states from the stream of consciousness. Quindi con la pratica della Vipassana, cioè con l'addestramento mentale, Vipassana Bhavana, noi possiamo temporaneamente e poi in maniera invece definitiva abbandonare o addirittura sradicare alcuni stati mentali non salutari. So, when a practitioner of Satipatthana is going through the different insight knowledges and is really mindful from moment to moment, then the unwholesome mental states have no chance to arise. But as soon as the mindfulness is gone, they might certainly still come back up. Quindi un praticante di Satipatthana Vipassana, durante la sua pratica, during his practice, his mindfulness... when the mindfulness is continuous, the mental defilements cannot arise. When mindfulness is absent, then it leads... these unwholesome mental states will resume. Sì, quindi quando la pratica è continua, quando è continua, quindi quando non c'è interruzione nella consapevolezza, c'è consapevolezza momento dopo momento, allora gli stati mentali non salutari non avranno modo di sorgere, ma quando questa consapevolezza viene interrotta, ecco che risorgono di nuovo gli stati mentali negativi. And when a meditator attains the first path of stream entry, so sottapatti magga jnana, then with this sudden experience comes the total eradication of three mental fetters. Allora, quando un meditante raggiunge il primo grado di illuminazione, cioè entra nella corrente, quindi Sotapatti Maggagnana, allora a questo punto si libera di tre principali legami, diciamo. Tre principali catene. And certainly those are the wrongful belief in the existence of a self. Quindi, e questi sono la credenza errata dell'esistenza di un sé. Doubt in the Buddha, Dhamma and Sangha. Il dubbio nel Buddha, Dhamma e Sangha. And then, as number three, wrongful belief in the fact that rites and rituals lead to gaining of the Dhamma. Quindi il superamento della credenza che i riti e i rituali possano portare al raggiungimento del Dhamma. Yeah. Now, in the case of Samatha practice, serenity practice, this eradication of the mental defilements is not happening in the same way. What we have is only a suppression of the five hindrances. Allora, quello che capita nella pratica di Samatha o di tranquillità è che questi inquinanti mentali non sono completamente sradicati, sono momentaneamente soppressi dal flusso della coscienza. And so when a Samatha meditator stops practicing intensively, then these five hindrances will come, will reappear. Ah, ecco, quindi ci sono i cinque ostacoli, gli inquinanti mentali. Quindi quando un praticante di Samatha interrompe la sua pratica, ecco che questi cinque ostacoli ritornano fuori. Now, let's see what else. The mind is such that the mind is flexible, and as such, it can be trained in diverse ways. It can be trained in Vipassana. It can be trained in Samatha. La mente è flessibile, pertanto può essere addestrata in modi diversi. Può essere addestrata nella Vipassana o addestrata nella Samatha. Now, when a meditator starts out his or her meditation with Vipassana without having done anything else certain before, then such a meditator would be called a Sukha Vipassana Yanika. Allora, un meditante che comincia con la Vipassana, non ha fatto nessuna pratica precedente, allora viene chiamato un Sukha Vipassana Yanika. Namely, a practitioner of dry insight. Allora, in altre parole, è un praticante degli insights secchi. And the reason for this is, the reason for this expression is, because it's lacking the juice of Samatha practice. E il motivo per questo è che manca del succo della pratica di Samatha. Secco in quel senso. Aridi, forse meglio. Più elegante. And so, one, there are people who like Vipassana meditation so much that they do just this. Allora, ci sono le persone che amano la pratica di Vipassana così tanto che fanno solo quella. And so, this, according to the texts, based on what happened at the time of the Buddha, leads to, or can lead eventually to the realization of arahantship. E questo può portare, in base ai testi, ai tempi del Buddha, questo può portare direttamente allo stato dell'arahant. And there have been a number of monks and nuns, practitioners who've specialized in Satipatthana, who have not practiced anything else, who have not gained psychic powers, and yet gained arahantship. Ci sono casi di monaci e monache che hanno praticato questa vipassana secca e che non hanno acquisito, per esempio, poteri psichici o altro, nonostante sono arrivati allo stato di Arahant. Then, as the other form, there is what is known as Samatha Yanika, namely a practitioner of Samatha. Samatha Yanika invece si riferisce a un praticante di sola of the vehicle of Samatha. Del veicolo di Samatha. Yeah. And so this refers to a person who starts out with Samatha practice, develops the jhanas to a certain extent, and then switches to Satipatthana. E questo si riferisce a un praticante che comincia con la pratica di Samatha, sviluppa i jhana fino a un certo punto e poi passa alla vipassana, alla pratica di vipassana. Now, when one specializes in Samatha practice, then naturally one will be developing high degrees of concentration. Quindi quando uno si addestra nella Samatha, automaticamente si specializza nella Samatha, automaticamente svilupperà vari gradi di concentrazione. And so if then with a strong concentration one changes into Vipassana, then naturally Vipassana will be somewhat easier because one already has a good concentration. Quando uno poi passa alla Vipassana, è naturale che con questa forte concentrazione la pratica di Vipassana sarà in qualche modo più facile. But on the other hand, we can also look at it from the from different point of view, namely a person who's done Vipassana first and, let's say, gained the path of stream entry, and with this has already purified the mind to quite some extent, and this person then does Samatha practice, this person will have quite some advantage. Però vediamolo da un altro punto di vista. Se uno comincia con la Vipassana e arriva a livello del di entrare nella corrente di Sotapanna, allora, e poi passa alla pratica di Samatha, allora questo meditante avrà un certo vantaggio rispetto all'altro. In such a meditator will have a mind that is already relatively pure, and on top of that a mind that is well developed, and a mind in which plenty of equanimity is present. Quindi sarà una mente abbastanza pura, ben sviluppata, e conterrà una certa quantità di equanimità. And if one then with such a mind goes into Samatha, then the Samatha practice is not difficult anymore. Allora, se uno entra nella pratica di Samatha con una tale mente, una mente di questo tipo, allora la pratica di Samatha non sarà affatto difficile. Now, in terms of preferences, there are people who like to start with Samatha and then switch to Vipassana. There are others who start with Vipassana first and just continue doing this, or later on they want to experiment a little bit and then they also include Samatha. Allora, per quanto riguarda la preferenza di uno o dell'altra, ci sono meditanti che preferiscono cominciare con la Samatha e andare poi nella Vipassana, altri che invece vanno avanti con la loro Vipassana e poi successivamente decidono anche di fare delle pratiche di assorbimento, di Samatha. The Vipassana practice in itself is, how to put this, it's sufficient. La pratica di Vipassana di per se stessa è sufficiente. And so what happens in Vipassana practice is that a different type of concentration develops, which is known as Kanika Samadhi, momentary concentration. And you know, this arises, one uses different objects as objects of observation. So one spends some time on the rising. For those moments, concentration is there. Then the attention goes to maybe a pain. One stays with the pain, and during those moments or minutes, and concentration is there, and so on and so forth. So this is called momentary concentration. Quello che capita è che nella Vipassana c'è un tipo particolare di concentrazione che si chiama Kanika Samadhi ed è una concentrazione momentanea, cioè persiste nel momento in cui si osserva un oggetto particolare e gli oggetti cambiano. Allora uno osserva un dolore e in quel momento sorge la concentrazione riguardo a quel dolore. Poi l'oggetto cambia e la concentrazione poi è relativa a quell'altro oggetto e via di seguito, per esempio la tassiera abbassarsi dell'addome. And so this kind of momentary concentration, Kanika Samadhi, as it arises in Vipassana, can become so powerful in the end that together with the other enlightenment factors it brings about this path experience. E questa Kanika Samadhi, cioè questa concentrazione momentanea, può diventare così forte che insieme agli altri fattori dell'illuminazione può portare a questa forte esperienza dell'ingresso nella corrente. Path knowledge, del sentiero. Which then is so powerful that it manages to uproot certain fetters from the mind once and forever. Ed è così forte, così potente che dà la possibilità di eliminare determinati inquinanti mentali, determinati legami mentali una volta per tutte. And so, in samatha, if one were to practice only samatha, then sure enough, strong states of concentration arise, but samatha by itself will not be strong enough, or the concentration will not be strong enough to eradicate any of the defilements. Con la pratica di samatha è vero, ci sarà una forte concentrazione, ma questa forte concentrazione non sarà sufficiente per sradicare questi inquinanti mentali così forti. And so, another major difference between vipassana and samatha is the object that we're working with. Now, usually in samatha practice, the object tends to be one single conceptual object, such as an idea or concept like loving kindness or compassion, or it could be a virtue of the Buddha, virtue of the Dhamma, virtue of the Sangha, or even a corpse or whatever. There are 40 of those samatha topics. Allora, un'altra differenza tra samatha e vipassana è nell'oggetto di osservazione. Nella samatha è un oggetto solo che può essere, che è normalmente un oggetto concettuale. Può essere la gentilezza amorevole, può essere la compassione, può essere la virtù del Buddha o del Dhamma o del Sangha, può essere un cadavere o altro. E in tutto sono 40 questi oggetti di samatha. Now, in the case of vipassana, we are not introducing any conceptual object whatsoever, and we focus on the objects as they occur naturally. So we're not creating a pain to look at it. The pain arises by itself. And so, when we observe the rising and falling, we just observe it as it is happening. Nella vipassana quindi non si introducono degli oggetti concettuali, ma si osservano gli oggetti così come sorgono. Quando sorge un dolore non siamo noi che lo facciamo sorgere, sorge naturalmente, e così per l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, che è spontaneo. So in the samatha practice we're creating certain experiences, whereas in the vipassana meditation these things just unfold naturally. Quindi nella samatha noi stiamo creando determinate esperienze, mentre invece nella vipassana si stanno sviluppando in maniera naturale, si stanno rivelando in maniera naturale. The Venerable Sanatana Pandita has compared the two by way of an illustration, saying that practicing samatha is somewhat fighting a battle in the old days, and having a shield and a spear work with. Allora, Venerabile Pandita ha paragonato queste due pratiche dicendo che samatha è come andare in battaglia con uno scudo e una lancia. Whereas the pasana practice is fighting an uphill battle without a shield, without a spear, without a sword. La vipassana è combattere questa battaglia in salita senza uno scudo, senza una lancia e senza una spada. And so, to simplify it even further, we can say that samatha practice is feel good practice, because you end up with pleasant mental states, rapture will be there, happiness will be there, concentration will be there, whereas vipassana practice is kind of oftentimes dukkha practice. Allora, possiamo ulteriormente definire queste due pratiche dicendo che la samatha è una pratica che fa sentire bene, fa stare bene, perché ci sarà del rapimento, ci sarà della gioia, ci sarà della concentrazione, stati piacevoli, mentre invece la vipassana è un pochino più legata a una pratica di dukkha. Although in the end... Ho saltato qualcosa? Ah, ok. Although in the end... there's the experience of great happiness. Anche se alla fine questo porterà un'esperienza di grande felicità. Okay, so Massimo, this should then answer all of your questions. I hope. Rispondere alle tue domande. Maybe let's leave it with this and do the chanting. Sì, allora chiudiamo qui e facciamo il canto di metta, se non si fa troppo tardi.